È durato lo spazio di poche ore il divieto di tatuaggio per i minori di anni 18, salvo l'autorizzazione dei genitori, come contenuto nella normativa formulata dal Consiglio Superiore della Sanità e trasmessa alle regioni con circolare del competente ministro. È durato lo spazio di poche ore ed è davvero un peccato. Perché mai norma ministeriale si era conformata con tanta precisione allo spirito che guida ed ispira l'attuale governo e caratterizza più in generale la classe dirigente del paese? Era una norma sostanzialmente inutile? Perché se è vero che quella del tatuaggio, almeno da noi, è una pratica eminentemente giovanile, nel senso che esprimono dei caposaldi ideologici di chi ha quell'età, la convinzione che le decisioni e le credenze prese e maturate in quegli anni debbano e possano durare per tutta la vita, per cui è giusto che vengano esteriorizzate in forma indelebile, se è vero tutto questo non sembra proprio che la maggioranza di quanti si sottomettono a questa usanza sia costituita da minorenni. Direi anzi che l'età in cui si tende a prendere quell'importante decisione va collocata 2 o 3 anni dopo il conseguimento del diritto di voto. Era controproducente, come sono sempre i divieti arbitrari, ed era ipocrita, perché pur aderendo a una logica generale proibizionista che è sempre cara ai nostri governanti, specie in materia di sanità e di ordine pubblico, non si faceva espressamente carico della proibizione che esprimeva, ma la delegava a qualcun altro, nella fattispecie all'istituto familiare. Evitava così di prendere una posizione decisa, perché in questi casi, lo capite bene anche voi, le possibilità sono soltanto due. Se si considera il tatuaggio una pratica nociva e deplorevole, lo si vieta e si cerca di far rispettare il divieto, che ne dicono i parenti degli interessati. Se la si ritiene lecita o innocua, la si affida alla libera scelta dei cittadini e non ci si pensa più. Quella di non voler prendere posizione, di cercare di non prendere posizione, di dichiarare solennemente che il problema non è quello di dire sì o dire no, ma che bisogna creare le condizioni per sviluppare le prospettive di fare in modo che la situazione sia e così via, è un vizio piuttosto diffuso tra i nostri governanti. Lo stesso ministro della sanità, di fronte a problemi più seri, non so, quello della droga, ha sempre avuto la tendenza di dichiarare che non bisogna scegliere tra proibizionismo e liberalizzazione, che bisogna sforzarsi di superare i due corni del dilemma, che bisogna cercare di fare in modo che... E d'altronde tutti abbiamo presente le contorsioni logiche cui in tema di posizione da assumere nei confronti degli Stati Uniti in questi giorni si stiano abbandonando ministri di maggior peso politico. Purtroppo qualcuno deve aver fatto presente all'onorevole Bindi che esiste un limite anche al ridicolo, per cui in poche ore il divieto per i minori di 18 anni non accompagnati dai genitori è sparito d'incanto. Era tutto un errore. I minorenni possono fare quello che vogliono, anzi, con gesto di straordinaria liberalità gli è stato consentito persino di farsi praticare più di un buco per lobo auricolare per ogni orecchio. Per tutti, in compenso, resta in vigore una normativa senza la quale non si vede come abbiamo fatto a tirare avanti finora e non ci si potrà più far tatuare in parti del corpo delicate, come le labbra, la lingua, il seno, le pudenda, e gli operatori a cui sarà affidata la bisogna, e oltre a impegnarsi al rispetto dei doverosi standard di igiene, dovranno indossare un camice e una mascherina e dovranno informare gli aspiranti dei rischi connessi all'operazione e delle sue conseguenze, più o meno come i poliziotti americani dopo la sentenza Miranda leggono i loro diritti ai malviventi che stanno per arrestare, o i sacerdoti e gli ufficiali di stato civile informano i promessi sposi convenuti al loro cospetto delle norme che regolano il matrimonio. E soprattutto i tatuatori dovranno essere autorizzati dall'azienda sanitaria locale. Ecco, a me sembra che quest'ultima prescrizione sfiori il colpo di genio, perché, capite, se c'è un senso nella decisione di farsi tatuare, decisione che, come forse avrete capito, non mi ha mai tentato più di tanto, nasce proprio da quel suo significato di gesto romantico di sfida alle trasformazioni, no? Le convenzioni, della fiducia nella perpetuità dei propri convincimenti. Certo, molto dipende da cosa ci si fa tatuare e dove. Se uno esibisce una serie di simboli truculenti sulla fronte o sulle guance, è difficile che in futuro possa fare una brillante carriera bancaria o nel notariato. Mentre un disegnino qualsiasi su una parte del corpo destinata a restare invisibile ai più non impedirà a nessuno di diventare da adulto una colonna della società. Ma io sospetto che anche i timidi, i pavidi, che si limitano a farsi attuare una rosellina sulla natica destra, dell'emozione della trasgressione, di una sia pur piccola sfida, vadano sempre in cerca. E nel loro piccolo, visto che non possono frequentare la taverna di Jack il Nero a pago pago, quel tatuaggino è quello che riescono a fare per far capire almeno se stessi di avere il coraggio di non essere come gli altri, di non voler essere come gli altri. Ma che romanticismo volete che resti? Che razza di sfida volete che si riesca ad esprimere facendosi tatuare da un operatore autorizzato dall'azienda sanitaria locale? D'ora in poi persino andare dal parrucchiere sarà un'impresa più emozionante. Non bisogna mai dubitare delle capacità blandamente dissuasive dell'apparato burocratico.